e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua. Buongiorno a tutti e benvenuti a Cuore Denari. Parliamo subito degli argomenti che approfondiremo stamattina. Vogliamo già dire Vai. Ai nostri ascoltatori cosa faremo. Io mi occuperò di lavoro e di scuola, è un rapporto naturalmente sempre un po' complicato, perché sappiamo bene che nel mondo dell'industria ci si lamenta che la scuola non offre professionalità adeguate. Stamattina vi presenteremo anche la testimonianza di un imprenditore che fa fatica a reperire le professionalità che gli servono, e noi cercheremo di capire come anche a livello pubblico invece si cerca di far incontrare domanda ed offerta. Parleremo di questa nuova figura del tutor che presto entrerà nel mondo della scuola. C'è questa iniziativa pronta a decollare dell'ANPAL e l'Agenzia Nazionale per le politiche attive. Ti piace questo tutor? A me piace tantissimo il tema del lavoro, lo sai che deve diventare un nostro grande cavallo di battaglia, e lo diventerà. Anche perché il lavoro, lo sappiamo, è proprio un tema di Cuore Denari. Certo, nobilita l'uomo e non solo. Allora, per la parte di cuore invece non potevamo non parlare di Sanremo. Lo avete visto, vi è piaciuto, ma soprattutto vi è rimasta in testa una canzone. Volete canticchiarcela all'800240024? Un bel libricino ad ogni canterino, e dalla musica passeremo ai rumori che ci infastidiscono. Una ricerca, fatta una sorta di playlist, ma anche a voi naturalmente potete dire la vostra, insomma una doppia sessione di allenamento, testa e udito. Voi intanto scaldatevi la voce e iniziate a canticchiare. La consueta colonna sonora che ci introduce alla nostra veloce rassegna stampa, che parte come sempre con un'occhiata all'andamento dei mercati finanziari. Queste borse in Europa in particolar modo sono un po' nervose in questi giorni, e lo è particolarmente Milano, che anche stamattina parte debole, meno 0,24% sul FTSE MIB, e torna a rialzare la testa, come sapete, lo spread fra BTP e Bund. Il differenziale di rendimento fra il titolo decennale italiano e quello tedesco è di nuovo a 200 punti base. Peraltro segnalo oggi anche sulle pagine del Sole 24 Ore tutte le indicazioni per investire con questa situazione. Quello che diciamo noi è che bisogna farlo intanto con cautela. Milano, i migliori titoli di stamattina, provano a risalire la china quelli che ieri hanno perso di più. C'è stato il tonfo del Banco BPM, ieri e oggi recupera circa un punto. Più 0,6% per Enel, STM, freni di Brembo e Fiat Chrysler. In calo molto forte Yux e Net-a-Porter, ha comunicato i dati ieri sera, meno 4,27. Tenaris meno 2, Saipem meno 1,70, un po' di tensione anche sui petroliferi per lo scivolone del prezzo del petrolio registrato nelle ultime ore, addirittura arrivato a $51 a New York. Vedo adesso tra i dati interessanti, che magari approfondiremo nei prossimi giorni, c'è l'indagine Istat sull'andamento delle compravendite di immobili nel terzo trimestre del 2016. Abbiamo una crescita di oltre il 17% per le abitazioni, e magari il tema immobiliare mattone potremo anche provare, Nicoletta, a tornarci nei prossimi giorni, perché insieme alla lavoro e altri temi, questi sono quelli che ci piacciono. Quanti di più. Quanti temi ci piacciono? La lista è lunga. Abbiamo bisogno di tutto il palinsesto, dovremmo fare... Facciamo lanciare agli ascoltatori una petizione Cuore e Denari tutto il giorno. Vabbè. Adesso invece andiamo, lasciamo subito la borsa, poi ci torniamo tanto nei giornali radio, e alle 11.30 andiamo su questo tema, lo dicevo prima, che ci sta terribilmente a cuore, è proprio il caso di dirlo. L'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Ci torniamo proprio a pochi giorni dalla diffusione dell'ultimo dato molto preoccupante sulla disoccupazione giovanile, di nuovo sopra il 40%. La disoccupazione che si riferisce alla popolazione dei giovani di età inferiore ai 24 anni. Ecco perché ci interessa raccontare tutto ciò che si muove in senso positivo per affrontare questa vera e propria emergenza. Peraltro ci leggo anche un'altra notizia che appare questa mattina su alcuni giornali, non su tutti, perché il Ministero dell'Istruzione ha comunicato questi dati proprio ieri sera tardissimo, per cui non tutti i giornali sono riusciti a farne un approfondimento adeguato. Ieri sera alle 20 si sono chiuse le iscrizioni online per appunto la scuola secondaria per l'anno scolastico, per il prossimo anno scolastico 2017-2018. Il bilancio è che oltre a uno studente su due ha scelto appunto il liceo scientifico, c'è una forte rimonta anche del liceo classico, piace l'indirizzo informatico, ma c'è un tracollo invece per gli istituti professionali, e questo è un tema molto importante, perché in realtà queste sono proprio le professionalità che chiedono le aziende, e quindi qua si capisce il motivo per cui poi le aziende fanno fatica a reperire appunto le figure professionali che, di cui hanno bisogno. Adesso ne parliamo. Detto questo, parliamo appunto di disoccupazione giovanile. Noi abbiamo parlato spesso di garanzia giovani negli ultimi mesi, abbiamo anche evidenziato come sta decollando con non poca fatica, con tutta la sua attività e il suo lavoro, l'ANPAL, la nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive. C'è questa nuova iniziativa su cui questa organizzazione sta provando ad imprimere una certa accelerazione, ed è quella dell'inserimento della figura del tutor nelle scuole e nelle università, proprio per aiutare i ragazzi ad approcciarsi correttamente e utilmente al mondo del lavoro. A che punto siamo? Chi sono questi tutor? A che punto è tutta l'agenda di ANPAL? Buongiorno e grazie per essere tornato con noi al professor Maurizio Del Conte, che è il presidente dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Buongiorno, professore. Buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Aveva già avuto modo di farci compagnia nell'ultima puntata al Festival Luci sul Lavoro di Montepulciano, e quindi a distanza di qualche mese torna con noi. Insomma, ha lavorato senza sosta in questi mesi per far partire l'attività di questa agenzia, ma ancora alcuni tasselli mancano. Se ce la facciamo nella seconda parte della trasmissione ne parleremo. Prima di tutto però vorrei spiegare ai nostri ascoltatori, professor Del Conte, la ratio di questa nuova iniziativa. Chi sono questi tutor, chiamati anche da qualcuno, leggevo sui giornali in questi giorni, dei facilitatori appunto del rapporto fra scuola e impresa? Ci racconta un po' che cosa state facendo e perché questa accelerazione di cui hanno parlato i giornali in questi giorni? Ma la ratio è abbastanza semplice. Noi soffriamo, lo avete già ricordato voi all'inizio, di un tasso di disoccupazione giovanile molto elevato, più elevato che negli altri paesi europei, soprattutto per il tempo di latenza, cioè di totale disimpegno senza nessuna occupazione del giovane che esce dal percorso scolastico e prima di trovare un lavoro resta in stato di disoccupazione più che i suoi coetanei degli altri paesi europei, molto di più. Allora, il problema è che in altri sistemi il raccordo fra la scuola e il mondo del lavoro è consolidato da tempo, le scuole si preoccupano di orientare il giovane in modo che il giorno del diploma sappia già dove andare, abbia già avuto un contatto con l'impresa, sia in qualche modo già attrezzato per spendersi nel mondo del lavoro. E questo è un pezzo che noi manca. Naturalmente sappiamo che la buona scuola ha previsto l'alternanza obbligatoria anche per tutti i licei. Voi prima appunto segnalavate come il liceo oggi è in rimonta, ma io vorrei sapere quanti genitori che hanno sperimentato appunto questa alternanza hanno avuto un'esperienza positiva in termini di effettivo incrocio con le imprese. Cioè, il problema è che la legge è bella, pone un bel principio, quello di fare alternanza, ma sono le gambe della legge che mancano, cioè manca la struttura. Allora, l'idea che abbiamo avuto in ANPAL e che in realtà ripercorre un'esperienza già di Italia Lavoro, oggi ANPAL Servizi, sperimentata sul campo, è quella proprio di mettere a disposizione dei professionisti, dei tutor che abbiano competenze professionali specifiche per una serie di attività. La prima è quella proprio dell'orientamento, certo. Orientamento in ingresso. Professor Del Conte, guardi, la interrompo subito perché questo tema glielo voglio far spiegare bene. Cosa faranno i tutor, chi sono, dove li andrete a reperire e a reclutare? Adesso ho il traffico, ma 30 secondi di commento glielo voglio far fare su questa relazione che lei ha stabilito con anche l'operazione alternanza scuola-lavoro. Non sono due iniziative che viaggeranno su binari paralleli e distaccati, ma in qualche maniera dovrete interfacciarvi, non sono iniziative che confliggono. No, basta fare iniziative confliggenti, sparpagliate, che non si parlano. Bisogna ricondurre tutto attorno alla persona, del giovane, che non ha bisogno una volta dell'alternanza, una volta dell'apprendistato, una volta di altre forme di incrocio col mercato del lavoro. Il giovane deve entrare con una solida struttura nel mercato del lavoro, e noi dobbiamo completare un piano per consentirgli questa elementare capacità. Un percorso condiviso. Intanto invito gli ascoltatori a dirci la loro su questo tema delicatissimo, molto importante, che sta a cuore soprattutto dei genitori. 800 24 00 24, siamo pronti a raccogliere le vostre testimonianze, se magari siete proprio in questo momento in procinto di affrontare questa nuova fase della vita dei vostri figli, stanno andando in un liceo, in un istituto professionale, in una scuola che appunto sta permettendo loro di intraprendere questa iniziativa di percorso appunto con un'impresa. Come sta andando, come la state valutando? Insomma, siamo pronti a raccogliere le vostre testimonianze. Intanto, a tra pochissimo. Cuore e denari. Io se ci penso, Carlo. No, perché hai anche dovuto svelare ai giornali che fai beneficenza, tu che volevi tenertelo per te e non hai potuto. Ma se tu pensi che addirittura Maria, tu lavori gratis, Maria non ha nemmeno voluto un voucher di Poletti. Ragazzi, io ve lo dico subito, io sono di Genova, col cazzo che lavoro gratis, no, ve lo dico. Vabbè, scusate che abbiamo messo anche la parolaccia di prima mattina, non potevamo farci mancare, no, Crozza, vabbè, a Sanremo ovviamente. Non vuoi mica tagliare Crozza. Ha punzecchiato tutto quello che attiene alla sfera economica di cui ci occupiamo noi, il lavoro, la finanza, è toccato anche alle banche, per cui un pezzettino abbiamo voluto sentirlo. Allora, professor Maurizio Del Conte, presidente di ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, è l'iniziativa che sta partendo, quella dell'inserimento della figura del tutor nelle scuole e nelle università per aiutare i ragazzi ad approcciarsi correttamente, dicevamo prima, al mondo del lavoro. Allora, in che momento siete di questa iniziativa, professor Del Conte? Ne abbiamo spiegato la ratio, la finalità, l'obiettivo. Andiamo adesso appunto alla fase concreta. Quanti tutor pensate di inserire nel mondo della scuola ed universitari? Dove andrete a reperire queste professionalità? Ma innanzitutto noi partiamo non da zero, perché abbiamo già un'iniziativa in corso, seppur molto piccola, sperimentale, su una platea ridotta di scuole. Quindi abbiamo già in casa le professionalità e il modello di intervento, ma dobbiamo moltiplicarlo, cioè dobbiamo dare la garanzia di un tutor per ogni scuola d'Italia, con un processo a tappe. Noi quest'anno selezioneremo nei prossimi mesi 215 nuovi tutor da destinare nella maggioranza alle scuole secondarie superiori e una piccola quota anche per le università, e poi per essere pronti già dal prossimo anno scolastico, quindi dal 2017-2018, con questa prima tranche di scuole che saranno quelle che per prime ci chiederanno e avranno necessità di questo intervento. Procederemo poi progressivamente con l'obiettivo entro il 2020 di arrivare a tutte le scuole d'Italia, quindi con un migliaio di nuovi tutor che noi formeremo proprio seguendo il modello che e l'esperienza che già abbiamo per offrire una serie di servizi allo studente, ma anche alla scuola e alle imprese che si rivolgono alla scuola per trovare le professionalità. Questo è un aspetto molto importante sul quale le chiedo, professor Del Conte, di soffermarsi, perché qua non si tratta di individuare delle professionalità, delle competenze che si metteranno a disposizione dei ragazzi per far capire loro quali sono le loro vocazioni, cosa vorranno fare da grandi, eccetera. Si tratta poi proprio di figure che si sporcheranno le mani anche nella interagire con le aziende presso le quali questi ragazzi potranno andare a lavorare, almeno nelle prime battute della loro carriera professionale, no? Quindi questo è un aspetto che vorrei che ci spiegasse molto attentamente. Esattamente, non saranno chiaramente dei docenti, sono professionisti che hanno una specifica capacità non soltanto di fare l'orientamento, ma anche di svolgere pratiche burocratiche. Noi sappiamo purtroppo che la burocrazia legata agli stage, agli apprendistati, all'alternanza stessa, frena moltissimo la capacità del tessuto imprenditoriale italiano, che tipicamente è di un'impresa piccola, medio-piccola, sì, quindi non strutturata per affrontare queste procedure burocratiche, all'attivazione, cioè all'incontrare davvero i ragazzi. Questo tutor avrà il compito di redigere i moduli, preoccuparsi che tutto il processo burocratico sia svolto correttamente, naturalmente sulla base di format che noi gli forniremo e di informazioni anche sul mercato del lavoro che gli informeremo grazie alla nostra struttura centrale. Quindi un po' sì, tutor in ambito accademico, un po' dei consulenti del lavoro. Dove li andrete a reperire? Come ci si può candidare ad esercitare questo ruolo, professor Del Conte, ammettendo di aver stuzzicato l'interesse anche da parte di qualcuno che ha magari una naturale vocazione, no, a svolgere questo compito di collante fra scuola e mercato del lavoro? Dove li recuperate? Certo, ma diciamo che Italia Lavoro negli anni precedenti e oggi ANPAL Servizio ha una lunga esperienza di reclutamento di queste figure professionali. Quindi diciamo, avete già un serbatoio a cui attingere. Abbiamo un serbatoio a cui attingere, il modo sarà molto semplice, metteremo sul sito l'avviso, il bando e ci si potrà iscrivere per sottoporsi poi alla procedura di selezione. La cosa importante è che non è richiesta da subito la piena conoscenza di tutte le attività che si andranno a fare, perché poi noi comunque formeremo i tutor selezionati per svolgere al meglio la loro attività. Quindi sono necessarie alcune competenze di base, ma non certamente le per esempio competenze di orientatori, di formatori, che sono il nostro bacino tradizionale di reclutamento, ma anche altre competenze più generiche, purché disponibili a imparare, perché anche il dato sui licei questo ci dice, dobbiamo essere capaci soprattutto di imparare e disponibili anche a sporcarsi le mani, come diceva lei prima, cioè non si va solo per far teoria, ma si va per risolvere problemi concreti. Compilare anche qualche modulo, che è la parte burocratica sempre un po' più noiosa, per non dire sgradevole. Senta, lei diceva pubblicheremo un bando e la notizia sarà pubblica sul sito di ANPAL Servizi, quindi sarà una sorta di concorso che dovranno fare questi futuri tutor, oppure ci si potrà candidare spontaneamente, poi farete una selezione? Perché magari voi dite ne servono adesso 215 per il prossimo anno scolastico, per il primo anno scolastico utile, ma magari arrivano 100 candidature, non sono sufficienti, quindi oppure ne arrivano 400, poi come li selezionerete? In base all'arrivo delle domande oppure farete dei colloqui? Quindi andiamo tutte le nostre procedure di selezione prevedono un curriculum, la valutazione del curriculum e delle prove. Quindi questo è un normale processo di selezione all'esito del quale, poi ripeto, verrà fatta una graduatoria e se le domande saranno in sovrannumero, chiaramente qualcuno resterà fuori. Io non penso che avremo una grossa difficoltà a coprire i posti richiesti, perché in realtà tante facoltà oggi sfornano laureati in campi utili per questo tipo di attività. Ah, quindi anche neolaureati potreste teoricamente valutare. Certamente, anche neolaureati. Noi puntiamo soprattutto sui giovani, perché io sono convinto che se si deve andare a parlare con un ragazzo una freschezza mentale, anche un non troppa distanza generazionale sia fondamentale, ma naturalmente anche chi ha già maturato esperienze in campi analoghi potrà presentare la sua domanda, anche se non è freschissimo di età. E poi faremo la selezione. Allora, intanto stavo guardando un po' i messaggi e le telefonate che arrivano. Un ascoltatore, adesso vediamo se riusciamo a metterlo in onda. È pronto per la verità Giovanni da Venezia, che adesso ascolta. Ma un altro un altro ascoltatore da Napoli voleva intervenire dicendoci: si occupa di scuola lavoro, lì a Napoli l'esperienza non è per niente idilliaca, come stanno dicendo. Ma veramente anche nessuno su, proprio di questo. Anche su WhatsApp ci ma sono sì, un po' ma di non mi pare ascoltatori di aver che dipinto in maniera idilliaca questa situazione. Anzi, proprio professor Del Conte è stato molto, molto netto nel dire, rispetto a come succede in altri paesi d'Europa, noi stiamo ancora indietro, c'è un distacco netto, c'è un distacco talmente netto ancora tra scuola e mondo dell'impresa, che poi noi vi faremo ascoltare la testimonianza di un imprenditore veneto che ci ha proprio chiesto aiuto nei giorni scorsi, dicendoci: io cerco questa professionalità, che sono abbastanza particolari, ma è possibile che non mi arrivi nessun curriculum di candidature? Mi sembra incredibile. Sono professionalità particolari nel settore dell'informatica / farmaceutica, Nicoletta, quindi un imprenditore cuore denari, ma poi ve lo faremo ascoltare appunto le difficoltà che ha. E questa sua storia peraltro fa il paio anche con quella invece di Michele, questa storia terribile che compare stamattina su tutti i giornali, appunto, che ha deciso di togliersi la vita attribuendo anche questo suo fortissimo disagio alle difficoltà che riscontrava nel farsi spazio nel mercato del lavoro. Quindi veramente un tema che fa a pugni in ogni modo, come lo metti stride. Allora, chi mi segnalava? Dunque, facciamo una cosa, che non sento nessuno dei due perché abbiamo un minuto e non ce la facciamo. Intanto li salutiamo, sono Giovanni, sì, esatto, dalla provincia di Venezia, Antonio dalla provincia di Napoli. Ma magari ce la faccio, Giovanni si era già candidato. Giovanni, ce la fai in 30 secondi a dirci quello, sì, che voleva raccontarci? Veloce, allora, grazie. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Io sono imprenditore nel mondo del turismo e sono anche il vicepresidente dei giovani albergatori d'Italia. Sì. Quindi io dico, molto importante spingere sulla formazione dei ragazzi a scuola, molto importante che i tutor siano preparati, quindi corsi prima per i tutor, quindi formiamoli bene e poi mandiamoli nelle scuole a formare i ragazzi. Altra cosa molto importante è formare i professori, perché oggi il mondo della scuola è spesso lontano dal mondo del lavoro. Esatto, è quello che abbiamo detto. Giovanni, grazie una tantissime. Una sintesi perfetta. Il segnale orario vi è offerto da Iperceramica, prezzi super, qualità iper. Ascolto Gianluca perché sei solo chiacchiere distintive. Perché non lo si può vedere. Perché è uno specchio deformante. Fa ridere ma fa anche riflettere. Ascolto Gianluca perché mutano le case, mutano le cose, mutano le mele da Renetta deliziose. Muta questa vita, ma ancora in cosa non si sa. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Cuore e denari. Lavoro di noia, lavoro di fame, lavoro d'artista, lavoro normale. Stiamo parlando di lavoro e vi abbiamo presentato, anche se è rimasto ancora con noi nella prima parte della trasmissione, questa iniziativa pronta a decollare da parte dell'ANPAL, la nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che ricorderete è stata introdotta dal provvedimento, appunto, che ha introdotto nel nostro ordinamento il Jobs Act, e stanno partendo appunto queste nuove figure che verranno inserite nel mondo della scuola e dell'università, di tutor, pronti a far dialogare quanto più possibile in maniera molto concreta il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Ci ha spiegato tutto il professor Maurizio Del Conte, che dell'ANPAL è presidente, e ci sono stati anche molti interventi da parte vostra all'800 24 00 24, molti anche di critica naturalmente. C'è addirittura chi dice naturalmente, vabbè, state parlando di un'iniziativa che crea lavoro a chi già lo ha. E invece non è così, perché Del Conte ci ha detto che se tutto funzionerà come dovrà funzionare, come è nelle intenzioni appunto dell'ANPAL, in realtà potranno essere inserite anche come tutor giovani che escono dal mondo dell'università pronti a cimentarsi appunto in queste iniziative. Adesso magari ci ritorniamo, però siamo consapevoli del fatto che quando parliamo di mercato del lavoro parliamo di un mercato molto difficile in cui si fa fatica a far incontrare domanda ed offerta, e su questo ci siamo soffermati a lungo nella prima parte del programma. Difficoltà per i lavoratori, ma talvolta anche per le aziende che cercano. Per averne un'idea, noi abbiamo raccolto la testimonianza di un imprenditore, Marco Bonesini, CEO, amministratore delegato di TrueBlue, un'azienda che opera nel settore farmaceutico, realizza prodotti proprio per le multinazionali farmaceutiche. Un imprenditore cuore denari, Nicoletta. L'azienda va molto bene, è in grande espansione, crea tanti posti di lavoro, ma ci ha raccontato Bonesini, non ci arrivano curriculum, non sappiamo più come fare. Allora questa società si è interrogata su questo, ne sono nate naturalmente anche da parte nostra riflessioni interessanti. Sentiamo la testimonianza appunto di Bonesini, che è stata raccolta ieri dal nostro Marco Lombardo. È un'azienda che opera da più di 24 anni nel mercato farmaceutico, è un'azienda, grazie a Dio, in continua crescita. Da sempre abbiamo ammirato l'eccellenza, anche perché i nostri competitor sono delle multinazionali da 11-12 mila dipendenti presenti più o meno in tutto il mondo. E la risorsa principale sono ovviamente le persone, quindi i cervelli. Una delle caratteristiche principali della nostra azienda è stata quella di trovare sul mercato di neolaureati, principalmente in informatica o matematica o statistica ed altro. Su queste persone andiamo a investire almeno i primi 4, 5, 6 mesi su una formazione più specifica inerente a quelle che sono, diciamo, le esigenze del mercato a cui noi andiamo a proporre i nostri prodotti, i nostri servizi. Ci preoccupiamo di assumere fin dal primo giorno le risorse con dei contratti a tempo indeterminato, anche perché vogliamo garantirci che al termine di quei 3, 4, 6 mesi di formazione che le persone ovviamente rimangano in azienda, credono in azienda e ovviamente fin dall'inizio si rendano conto del, anche della tipologia di investimento che noi andiamo a fare su di loro. Cerchiamo in continuazione nuove risorse perché l'azienda sta andando molto molto bene, grazie a Dio siamo passati da una realtà tipica locale a una realtà più internazionale. L'azienda comunque propone a loro dei piani ben precisi di crescita. Malgrado questa ricerca noi ci troviamo poi ad avere poche risposte e quindi pochi curriculum. Non siamo molto conosciuti, siamo posizionati a Verona, che è una città abbastanza di provincia rispetto ovviamente a Milano o altre capitali europee. L'altra considerazione molto importante in questa nostra difficoltà, riflessione su questa nostra difficoltà, è anche legata all'aspetto economico. Noi, avendo un equilibrio al nostro interno, dove è la meritocrazia quella che poi va a premiare il risultato delle singole persone, dobbiamo partire sempre all'inizio, anche perché visto l'investimento già che facciamo per i primi 3-6 mesi di formazione, partiamo con lo stipendio base e a volte ci troviamo veramente in difficoltà in quanto altre aziende che magari non danno prospettive ai loro dipendenti per 100 euro al mese in più o 50 euro o 150 euro decidono un'azienda rispetto all'altra, non capiscono l'opportunità di crescita che potrebbero avere, ma magari valutano solo esclusivamente il brand dell'azienda o l'aspetto economico dell'azienda. All'interno di queste grosse multinazionali si trovano ad avere un percorso molto difficoltoso o un percorso stagnante. Abbiamo degli esempi di persone che dopo 3 anni che lavorano all'interno della nostra azienda si sono trovate a gestire o a lavorare o a gestire in progetti negli Stati Uniti piuttosto che in Russia, piuttosto che in altre parti del mondo, con delle grandissime responsabilità. E questa è una caratteristica di noi, diciamo un po' provinciali, il fatto che non diamo molta visibilità alla nostra azienda, quindi tendenzialmente siamo un po' dei lavoratori che pensano a costruire un qualcosa, sempre meno a far sapere che cosa hanno costruito e che risultati hanno ottenuto. Professor Del Conte, potremmo prendere riga per riga, parola per parola, il discorso di questo imprenditore e farci una trasmissione a sé, perché i ragionamenti fatti sono tanti, a parte la difficoltà nel reperire appunto le professionalità. La questione dello stipendio, come dire, anche se il contratto, il nostro è stabile, con una prospettiva di crescita, partiamo magari con un livello inferiore, però i ragazzi preferiscono magari andare subito alla multinazionale dove non hanno prospettive di fermarsi a lungo, ma così intravedono dell'altro per il loro futuro. Insomma, quali sono gli aspetti che l'hanno colpita di più di questa testimonianza? Peraltro io dico che se ci sono altri casi del genere di imprenditori che ci stanno ascoltando e riscontrano le medesime difficoltà, faremo sul nostro profilo Facebook, quello di Cuore e Denari con Nicoletta, magari una pagina apposita dedicata proprio a quelle aziende che cercano ma non trovano. Vediamo un po' se possiamo fare noi una piccola agenzia del lavoro qui al nostro interno, naturalmente senza scopo di lucro, una piccola onlus come quelle che facciamo già ogni giorno alla Cuore Denari. Professor Del Conte. Ma guardi, avete ragione, è un piccolo riassunto dei tanti problemi del nostro mercato del lavoro. Primo, non abbiamo mai avuto un mercato del lavoro trasparente a livello nazionale. Oggi un lavoratore di una regione non sa quali sono le offerte che vengono proposte in un'altra regione. Qui un po' un problema dei centri dell'impiego che lei sta cercando di far funzionare un po' meglio. Esattamente. Ecco. Un problema anche di sistema informativo che finalmente dovrebbe diventare nazionale. E questo è uno dei nostri compiti, quelli di mettere insieme i sistemi regionali, che naturalmente hanno linguaggi sia informatici che proprio tecnici molto diversi, quindi il problema dell'integrazione è fondamentale. Poi c'è un problema anche certamente di condizioni di lavoro. È chiaro, i giovani sono poco interessati al contratto a vita. Sono molto più interessati ad avere prospettive e purtroppo in un sistema in cui non c'è un orientamento, quello che dicevamo prima, sulle propri talenti, sulle proprie capacità verso il mercato del lavoro, cioè non si sa esattamente cosa succede nel mercato del lavoro, il giovane è tenuto fuori da questo mondo, è chiaro che ci si affida al brand, cioè il ragazzo, basta andare a vedere le indagini su quali sarebbero gli employer ideali, cioè i datori di lavoro ideali, e voi trovate Coca-Cola, i primi marchi, Google, Microsoft, esatto, eccetera, non certo Ferrero, l'azienda di Verona. Eccetera. Questo è il punto, e quindi è poco attrattiva un'impresa che invece magari ha molte maggiori possibilità di sviluppo. E poi c'è certamente il fattore salariale, è un fatto che in Italia si scambia molto la stabilità con un basso salario, ma anche qui è una mentalità vecchia, perché i giovani non sono interessati alla stabilità al momento in cui entrano nel mercato del lavoro, ma sono molto più interessati a guadagnare bene e ad avere delle belle prospettive di crescita. Professor Del Conte, noi la ringraziamo per essere stato con noi questa mattina, torneremo a disturbarla molto presto, perché le politiche attive del lavoro sono il nostro, la nostra ossessione qui a Cuore e Denari. Solo un'ultima cosa, in 30 secondi. Per questa vostra ossessione, ci piace molto averla qui ospite. Senta, quando partirete allora con la selezione dei tutor per le scuole secondarie e le università? Quindi quando troveremo sul sito di ANPAL il bando? La primavera, direi fra aprile e maggio. Paio di mesi, perfetto. Ormai ci siamo. Ormai ci siamo. Dopo Sanremo si arriva. Dopo Sanremo, esatto. Primavera. Valeria Maria da Foggia voleva chiedere un suo commento. Valeria su cosa... Maria come Carlo Maria, Maria, esatto, e Carlo. Su cosa ne pensa delle facoltà umanistiche, non riesco a mandarla in onda, professor Del Conte. Qua non si demonizza niente, naturalmente. Se uno ha quella attitudine, se piace quel mondo, anche a livello... Vanno benissimo le professioni umanistiche, vanno benissimo. Bisogna sapere però che quando uno fa una professione umanistica deve avere un percorso anche dopo la professione umanistica. Cioè non va bene immaginare che la professione umanistica sia legata, per esempio, soltanto all'insegnamento. Ecco qua. Quindi bisogna che qualcuno apertura gli spieghi che è pieno di direttori del personale laureati in filosofia, così come è pieno di letterati che fanno altri mestieri che nulla c'entrano con la loro studio. Grazie. Ieri un po' flessibile. Ho incontrato, era ad un incontro a Torino, ho incontrato una mamma di una giovane che si sta laureando in giurisprudenza e le interessa il mondo della moda, quindi non nella professione forense o giuridica, insomma, o legale, e mi è sembrata anche una buona idea quella di andare a fare, per esempio, l'avvocato delle società nel settore della moda che devono tutelare marchi, brevetti, brand e quant'altro, per cui effettivamente magari da un tipo di percorso di studio poi quello professionale è tutt'altro, ma non è detto che sia slegato dal percorso appunto di studio che si è fatto. Grazie professor Del Conte, buona giornata, presto. Grazie a voi. Buona giornata. Allora la facciamo questa pagina con... Guarda, adesso mi ci metto lì d'impegno. Chi cerca e chi offre? Assolutamente, pronti a partire. Naturalmente i nostri ascoltatori sono già molto interessati, diamo i riferimenti, dove possono trovare l'azienda di il nome dell'azienda di Verona? Allora la mettiamo subito noi sul nostro profilo Facebook e ci mettiamo tutta l'intervista per intero del nostro imprenditore che ci ha rilasciato questo documento di 17 minuti, noi l'abbiamo sintetizzato. Il nostro tre. Apripista. Assolutamente. Marco Bonesini, nostra guest star della giornata. Per allora, cui da vi lì ricordiamo partiremo. Intanto anche tutte le altre iniziative che stiamo seguendo. Deborah diceva appunto, sono delle onlus di Cuore Denari, il mese delle articolazioni. Con il professor Selmi, con tutti Brava. I suoi casi, continuano ad arrivarci mail, richieste, suggerimenti, domande, dubbi, e poi soprattutto la nostra sfida di quest'anno, del 2017, che è smettere di fumare Brava. Con i consigli del dottor Boffi. Quindi troviamo lavoro, cerchiamo di trovare e mantenere soprattutto la salute e il nostro benessere. E poi se per è possibile la... un po' di... con il risparmio facciamo fatica perché il momento è sempre difficile sui mercati, ma orientiamoci anche lì provandoci. Che dici, dovremmo aprire anche una posta del cuore, perché dobbiamo poi trovare anche il fidanzato. Intanto i fidanzati. Possiamo cantare. Che dici? Ti è rimasta impressa qualche canzoncina? Ma lo sai che ero in treno ieri sera, tornavo da Torino. Ma io te l'ho cantata qualcuna. Possibile? Allora, dopo Sanremo vogliamo parlare di musica, perché naturalmente a volte capita che qualche motivetto ci rimanga nella testa. Volete canticchiarcelo all'800 24 00 24. Ho promesso un bel libricino a ogni canterino. Forza, non siate timidi. Succede proprio che per una strana alchimia un ritorno ritornello magari ascoltato di sfuggita, apparentemente senza alcuna attenzione, però Sanremo l'abbiamo seguito con attenzione, i dati parlano di un grande successo, insomma questo motivetto risuoni nella nostra mente sino a diventare martellante. Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa, sentire una specie di orchestra, suonare, suonare, suonare, suonare. La canzone che mi catturato dalle nostre orecchie entra il motivetto in testa e sembra non voler uscire, ma c'è una spiegazione a tutto questo, ce la facciamo raccontare dal nostro primo ospite, il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma, che è tornato a trovarci. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ha visto anche a lei Sanremo? L'ho visto, ma non mi è ancora rimasta una musica in testa, bisogna sentirla più di una volta. Questa storia è una storia molto nota ai discografici. Quando si sente dire è pronto il tormentone estivo, questa è la tipica canzone di Sanremo, è perché in qualche maniera riflette dei canoni neurologici precisi. Ma cosa fanno certe musiche nel cervello? Fanno innanzitutto nel cervello, nel nostro cuore e nei muscoli addirittura del nostro corpo, dei segni indelebili. Le musiche ritmate evocano in noi, intanto la musica evoca alcune sensazioni che sono uniche della musica, cioè la nostalgia e la tenerezza, non c'è altra stimolazione sensoriale che dia queste sensazioni. Ma poi stimolano gli apparati, che si chiama apparato vestibolare, che è un apparato che controlla il nostro equilibrio e anche le contrazioni muscolari riflesse, è lo stesso motivo per cui noi sentendo una musica battiamo un piede o a volte ci mettiamo a ballare. Quindi esiste un meccanismo neurologico profondo. Ricordiamoci poi che, insomma, perché il cervello deve tenere a mente una roba che un po' infastidisce? Perché poi la musica parla anche nell'orecchio, ha un piccolo sussurra all'ippocampo, che è una zona del cervello ricca di recettori per l'ossitocina, che è l'ormone dell'abbraccio, l'ormone della socialità. Quindi il motivetto fa compagnia. A volte la compagnia è martellante e non sono rari i casi di persone che se ne vorrebbero liberare. Ora magari non di una musica specifica, ma alcuni tormentoni, per esempio alcuni che si trovano spesso in rete su YouTube, insomma riflettono mirabilmente questa strategia. Professor Barbanti, abbiamo parlato di musiche che diventano quasi dei tormentoni, ci suonano in testa, ma vorrei anche commentare con lei una ricerca che è andata a indagare i rumori che diventano molto fastidiosi, sono in grado di suscitare reazioni di sofferenza al punto da far saltare i nervi. L'elenco è lungo, naturalmente ciascuno di noi immagino abbia un rumore che gli dà particolarmente fastidio, alcuni indicano il russamento del proprio compagno di letto, altri il collega che batte, no, i tasti quando scrive al computer, oppure il vicino che mastica in modo molto rumoroso. Di solito sono rumori che provengono dagli altri e su cui esprimiamo naturalmente, esatto, anche dei giudizi, ci infastidiscono e poi quella persona ci diventa antipatica. Ma professor Barbanti, anche in questo caso c'è lo zampino del cervello. Sì, è uno studio molto bello che è stato fatto da prestigiose università inglesi assieme a un'università americana e viene spiegato un qualcosa di cui tutti noi abbiamo in parte conoscenza. Quando alla lavagna viene strisciato un gessetto, non c'è una persona che non senta un dolore che arriva fino ai denti. Bravo. Questo cosa vuol dire? Ai denti addirittura. Quindi vuol dire che c'è un canale che congiunge la parte uditiva del cervello con la parte delle nostre reazioni vegetative, e questo è fisiologico. Ma attenzione, ci sono persone che si nevrotizzano a sentire certi ritmi, ed è la cosiddetta misofonia di cui parlano questi ricercatori, che di questi tempi non riguarda solamente il ticchettio dell'orologio, ma gran parte per esempio della musica rap, che sì, per molti versi è interessante, per altri versi è martellante, o comunque musiche, mi lasci il termine, tribalizzanti. cosa hanno scoperto? Che sono cervelli un po' diversi, e cioè la zona della nostra vita vegetativa, che si chiama insula, ha lì una corteccia sviluppata in maniera un po' particolare. Non solo, è connessa con altre zone del nostro cervello che mediano le reazioni emotive a doppia corda, a doppio filo, cioè a connessioni più strette. Cosa succede? Questa gente è gente che con tutta la buona volontà diventa idrofoba, come si potrebbe dire, e ha delle reazioni improntate a rabbia, cattiveria, stizza, di fronte al ripetersi di suoni che non nevrotizzerebbero altri. Insomma, che cosa rappresenta questo studio? Un tana libera tutti. È un po' come Jessica Rabbit, è che mi disegnano così, è che sono nati così questi soggetti. Non è un'espressione di una nevrosi, ma è uno studio molto interessante a dimostrare che hanno lo stesso meccanismo che in tutti noi si attiva quando sentiamo il terribile suono del gessetto sulla lavagna, in qualche maniera a loro si attiva per stimoli triviali. Quindi non sono persone poco tolleranti, ma sono problemi, sono persone fatte così. Il loro problema si chiama misofonia, abbiamo capito bene? Esattamente, sono persone che tra la zona del cervello che riceve il rumore e la zona delle reazioni vegetative non hanno un viottolo, ma hanno un'autostrada di Los Angeles a 6 corsie. Arriva rapidamente l'impulso a determinare una reazione vegetativa, quella che noi chiamiamo interocezione. Insomma, è una scusante per i nostri amici. Io mi ricordo mio padre era così, si nevrotizzava con questi rumori. Poverino, era fatta così, c'aveva l'autostrada e non il viottolo. Sì. Professor Barbanti, grazie, le auguriamo una buonissima giornata. Grazie a voi, buona giornata. Che stavi dicendo a proposito del dottor Molossi? La Gossi, è un otorino, ci devi andare urgentemente. Ma non ci penso neanche, io ci sento benissimo, non scherziamo. E come no, ci sente benissimo, la vecchia befana. Hai sentito? Lo dice anche Cesare. Se lo dice a Manitou, andiamo tutti a Manitou. Da quando è che ci diamo del tu noi due? Porto di là i cornetti. No, li rifacciamo dopo i letti. Avete capito da questa breve clip, passiamo dai suoni che ci risultano particolarmente fastidiosi ai suoni che non riusciamo a cogliere. Parole, in piemontese si dice capisce ciod per broca. Buongiorno al dottor Sandro Burdo, che è tornato a trovarci, che sarà il nostro accompagnatore sino alle 12 per parlare di udito, disturbi dell'udito, consulente audiologo all'ospedale Bassini di Milano e responsabile scientifico dell'Associazione Italiana Liberi di Sentire Onlus. Dottor Burdo, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Partiamo dai suoni fastidiosi. Ma io, Nicoletta, mi ricollegherei un attimo a quanto ha detto il professor Bravanti, che è veramente interessante. E secondo me può essere utile concludere questa parte ricordando che la musica noi la elaboriamo con il cervello destro, mentre la parola la elaboriamo con il cervello sinistro. Lei sa che il cervello è diviso in due parti, sì, unite fra di loro da un sistema che si chiama corpo calloso. Allora è dominante sempre il cervello sinistro, però l'emotività, la musica e tutte queste cose, quindi anche i suoni come appunto una canzone, vengono elaborati dal destro. È interessante sapere che tutti noi possiamo conoscere quale cervello è dominante con un piccolo test che si trova su un'app per smartphone che si chiama iDichotic, e la suggerisco perché è fatta molto bene in un'università canadese che sta facendo un'indagine mondiale sul cervello dominante. È gratuita, chi vuole un paio di cuffie e uno smartphone può capire qual è il suo cervello dominante, tenuto conto che oltre il 90% il cervello dominante è il sinistro, ma c'è un restante 6, 7, 10% che ha il cervello dominante a destra. Destra. L'importante è che una delle due parti si attivi con questa app, dottore. Sì, sicuramente si colleghino fra di loro soprattutto. Allora, naturalmente è collegata con i mercati e le borse, Deborah, perché sono le 11.31, prontissime. Intanto arrivano già i messaggi, quali sono i rumori che vi infastidiscono. Allora Stefano ci scrive: mia moglie si lamenta del mio russare, allora è misofonica. Può darsi, Stefano. Potrei uccidere, ci scrive un altro ascoltatore, quando sento il rumore della masticazione, anche la mia, e il rumore anche degli sacchetti di plastica, e così via via. Ma anche raccontateci se capite esattamente le parole, se i suoni vi arrivano puliti, oppure avete provato una sorta di ovattamento, se le vostre orecchie sentono bene soprattutto, oppure se fischiano, perché può capitare anche quello. C'è Ugo che invece racconta che adora il rumore della centrifuga dei motori elettrici in genere. E vabbè, ognuno ha i suoi gusti. E poi chiedono se i tappi, per evitare di sentire appunto questi rumori fastidiosi, funzionano o possono alla lunga danneggiare. Dottor Burdo, puntata ricca. Ce n'è per lei, la borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Cuore e denari. Siamo abbastanza irritanti, ci mettiamo anche i rumori. Le scrocchiettio delle patatine per fa venire fame. Aperitivino ci sta adesso. Già sono le 11.37, sì. Direi che possiamo apparecchiare. Invitiamo anche il dottor Burdo, che è in linea con noi. Allora, qual è il suono, il rumore che vi dà particolarmente fastidio? Il gessetto sulla lavagna, le posate che stridono sul piatto, la voce della suocera. Alcuni, dottor Burdo, mi hanno scritto la voce di mia moglie. Non è un problema di udito, è un problema d'altro, forse di cuore. 800 24 00 24 se volete intervenire, anche per raccontarci se un ritornello, una musica vi è rimasta in testa dopo Sanremo e volete canticchiarla per ricevere a casa il libro, ma soprattutto se volete dal dottor Burda avere delle indicazioni per imparare a conoscere i segnali che possono tradire una certa sofferenza del nostro udito, ma soprattutto tutti i consigli per mantenerlo efficiente a lungo. Dottor Burdo, abbiamo già tante richieste dei nostri ascoltatori. Iniziamo da Claudio, che ci chiama dalla provincia di Milano. Poi dobbiamo ricordare l'app. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Niente, io diciamo che non ho particolari difficoltà a udire rumori stridoli o di frequenze basse, no? Ma in realtà quello che ho percepito ultimamente è una difficoltà a capire, guardando un film in TV per esempio, cosa dicono. Ho difficoltà a percepire, soprattutto se magari diciamo i toni sono piuttosto bassi, comincio ad avere questa genere di difficoltà, quindi volevo capire un po' da posso chiedere Claudio quanti anni ha? 53. Dottor Burdo, allora le parole che si impastano, dobbiamo alzare il volume della nostra TV. Abbiamo aperto questa nostra parte di trasmissione come un dialogo di una signora che capiva fischi per fiaschi. Sono tutti segnali che non vanno sottovalutati, ma letti come, dottor Burdo? Ma vanno letti, questo è un sintomo di iniziale, se non già conclamata in parte, sordità, ovvero il sordo non è solo colui che proprio non sente assolutamente nulla, e qui ci sono gli adagi popolari del vecchietto che allunga le orecchie piuttosto che... La sordità nel 25% della popolazione italiana inizia tra i 40 e i 60 anni, quindi nell'età media. 25% della popolazione italiana significa almeno 3 milioni e mezzo di italiani di quell'età che hanno dei problemi uditivi e non ne sono coscienti, perché pensano che sia legato ad altri fattori. Non sentire, non capire, non sentire, attenzione, non discriminare, questo è il termine corretto, bene la televisione, significa fondamentalmente avere un deficit uditivo sulle frequenze acute che non ti permette di sentire bene alcune consonanti. Famoso fischi per fiaschi, la parola fischi in italiano è la più difficile per un sordo, perché è tutta spostata sugli acuti ed è difficile discriminare una S, soprattutto se unita a una I da una F. Pensi anche, quindi, pensi per me quanto è difficile anche a pronunciare. Una valutazione dell'udito, anche perché i disturbi di vista e anche quelli di udito vengono, dottor Burdo, spesso considerati un po' conseguenze degli anni. Quindi da un lato c'è una sorta di rassegnazione che porta a non occuparsene, dall'altro però in una società che invecchia ma che non vuole invecchiare, i disturbi dell'età sono spesso taciuti, mascherati, nascosti. Il risultato, si perdono tempo, opportunità e qualità di vita. Forse, come diceva lei, dottor Burdo, un tagliando ogni tanto ci risparmierebbe in questo caso delle sonore delusioni. Allora, al nostro ascoltatore naturalmente suggeriamo un controllo dell'udito, ma quali altre persone dovrebbero controllarsi? In presenza di quali sintomi? E qual è l'esame che permette di sentirci chiaro, di vederci chiaro per l'otorino? Allora, l'esame dell'udito è test per eccellenza e su questo non scappiamo. I sintomi invece mi interessa sottolineare. Questo della televisione è importante, perché la televisione mette sotto stress l'udito, perché la qualità dell'audio della televisione non è come quello della voce naturale, e in questo modo vengono enfatizzati i problemi. Ecco perché alcune persone dicono: io ci sento bene normalmente, ma ho difficoltà con la televisione. Per questo non bisogna sentire la radio, dottor Burdo. Ecco, lo dica chiaramente. La radio. Si sbilanci. Questo mi sembra ovvio. Lo dica bene, che lo sentiamo bene. Scandisca bene le parole. Va bene. Il secondo sintomo importante è non capire nel rumore, perché il rumore, una persona che è un po' sorda, ha un effetto mascherante che è anche 5-10 volte superiore a quello che provoca su un udito normale. Quindi nel rumore chi ha un deficit uditivo capisce poco. Quindi dottor Burdo, questo vuol dire che quando noi andiamo al ristorante, siamo in mensa e facciamo fatica a capire quello che ci dice il nostro collega di lavoro, oppure, allora vuol dire che in questo caso dobbiamo rizzare un po' le antenne, le orecchie in questo caso. Dobbiamo prima di tutto confrontarci con gli altri e verificare se anche gli altri hanno problemi come il nostro, perché non è detto. Altrimenti cadiamo nell'errore che fanno spesso alcuni sordi protesizzati, che sono convinti che tutti gli udenti sentano a 100 metri di distanza, per esempio, per dire. Quindi confrontarsi con gli altri, se gli altri non hanno difficoltà, è ovvio che anche in questo caso è necessario fare una valutazione dell'udito. Sì. Che gli altri non abbiano difficoltà, attenzione, l'ho appena detto e lo ribadirò più volte, sono i 40-60enni il problema, non sono gli anziani. I 40-60enni dissimulano e simulano di sentire bene. Quindi il sorrisino ebete della persona che c'è vicino, che dà segno di non comprensione, è in realtà un segno di scarso udito. Quindi non ci sta sorridendo, non l'abbiamo conquistato, non si sta innamorando di noi, ma non sente. No. Dottor ecco, Burdo, questo, guardi, ma sembra incredibile, ma è così. Ma vede questo quante ne so. La strategia migliore che usano i sordi per non far brutta figura: un bel sorriso accattivante che mette tutto a posto. Tra l'altro, le ricerche da anni hanno indagato la relazione tra l'udito e le funzioni cognitive, mettendo in evidenza che il non sentire bene accelera l'invecchiamento del cervello, portando, secondo alcuni studi addirittura, alla perdita di materia grigia. Dottor Burdo, questo mi sembra abbastanza ovvio, però è così, ma va letto bene e va spiegato, secondo me, ancora meglio, perché altrimenti facciamo la fine degli spot pubblicitari per dare protesi agli anziani. Mi spiego. Noi non possiamo pensare di fare della prevenzione della demenza protesizzando, ovvero mettendo gli apparecchi acustici a un settantenne. Settantenne, se è demente o ha già iniziato, non è certo la protesi acustica che gli rallenta la demenza. Sarebbe ormai bellissimo se questo potesse essere vero. Brava, qual è il problema? È vero che una mancanza di udito provoca un deficit cognitivo? L'udito funziona come si può dire, un fiume in piena che non solo attiva le proprie aree, ma quando esce dai propri argini va a attivare anche altre aree. L'abbiamo sentito prima, l'emotività piuttosto che la memoria, piuttosto che il guessing, piuttosto che la velocità di elaborazione cognitiva. Una mancanza di udito quindi va a interessare non solo l'udito in se stesso, ovvero la capacità di sentire, ma anche tutto il resto che è collegato all'udito. Ecco perché una mancanza di udito può provocare dei deficit cognitivi. I deficit cognitivi dell'anziano non si prevengono protesizzando l'anziano, e lì facciamo delle altre cose, è chiaro che dobbiamo protesizzarli, ma si prevengono protesizzando i 40-60 anni, che se non si protesizzano a 70 anni saranno dementi. Adesso io ho esagerato. Certo, però per spiegare in modo chiaro la ratio di questi studi. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Ritorniamo subito dopo con il dottor Burdo per parlare del nostro udito, ma anche di un rumore che ci dà molto fastidio, quello del nostro compagno che russa. Russano anche le donne, ma gli uomini sembrano più fastidiosi, almeno a noi. Purtroppo è così. Cuore e denari. Eccoci qua, siamo tornati insieme, udite udite, parliamo di udito, siamo partiti dalla musica di Sanremo, dai ritornelli, dai suoni, dai rumori fastidiosi e anche dai suoni che arrivano in modo non chiaro al nostro orecchio. Angelo, dalla provincia di Venezia, stiamo cercando proprio di individuare tutti i segnali che ci possono evidenziare che il nostro udito ci manda un SOS, raccogliamolo. Angelo, benvenuto e buongiorno. Salve, buongiorno, grazie dell'ospitalità. È preoccupante quello che dite, che se l'udito comincia a diminuire, cominciano a diminuire le facoltà cognitive. Quello che volevo dirvi, un rumore che a me dà fastidio, è quando in una conferenza, soprattutto poi nelle conferenze con argomento politico, ci sono due che magari accanto a me parlottano tra di loro, no? Mentre il relatore sta esponendo qualcosa. E io non riesco a concentrarmi su quello che dice il relatore, ma mi dà fastidio questo parlottio, che tra l'altro è anche un po' segno di cattiva educazione. Vede che quando proprio anche le ricerche sulla misofonia metteva in luce che di solito ti danno fastidio rumori che provocano gli altri, e spesso tu finisci col dare un giudizio sulla persona, ad esempio guarda, fa rumore mangiando e quindi è maleducato, oppure stanno parlottando mentre il relatore sta facendo la relazione, è una mancanza di rispetto. Dottor Burdo, un commento ad Angelo. Ma sì, questo è un chiaro segno di, come si può dire, non chiamiamolo deficit, di mancata completa attivazione della tensione selettiva. Mi spiego. Sì. Quando noi vogliamo ascoltare una persona, se vogliamo possiamo escludere tutti quelli che parlano intorno a quella persona e ci concentriamo solo su quella persona. Questo si chiama attenzione selettiva, che non è solo proprio dell'udito, è anche della vista. Stiamo leggendo il giornale, la Gazzetta parla della Juve che vince, io mi concentro molto, mia moglie mi dice pronto, io non la sento, perché la mia attenzione selettiva ha escluso altri stimoli che non quello del giornale. Sì. Ora, un deficit di attenzione selettiva si può avere, per quanto riguarda l'udito, per due cause. La prima può essere un deficit uditivo. Difatti il deficit di sordità, quella più frequente, quella neurosensoriale o percettiva, sono calo dell'udito, deficit di discriminazione, che l'abbiamo detto prima, fischi per fiaschi, e un deficit di attenzione selettiva, cioè nel rumore io capisco molto meno degli altri, mi distraggo più facilmente, non riesco a concentrarmi su ciò che interessa. Attenzione, però ci sono anche delle persone che hanno un deficit di attenzione selettiva tout court, pur avendo un udito buono. Questo ad esempio è abbastanza frequente nei bambini, quelli che hanno la famosa ADHD, cioè i deficit da iperattività. Questi bambini hanno un deficit di attenzione selettiva e vanno gestiti come tali, non sono né maleducati né sordi. Che cosa bisogna fare? Dobbiamo utilizzare la tecnologia per far fare agli strumenti quello che il nostro cervello non è più in grado di fare, cioè quello di estrarre ciò che vogliamo sentire eliminando il rumore. ci sono dei sistemi che, grazie a Dio, cominciano a essere diffusi nelle scuole, che permettono al bambino con la ADHD di sentire prevalentemente la voce dell'insegnante, e guarda caso i bambini si calmano. Quindi è molto, quindi la tecnologia aiuta. Abbiamo visto anche ne abbiamo fatto delle puntate intere sulla dislessia, sì. Anche la tecnologia aiuta i bambini dislessici. Abbiamo parlato di rumori, e tra i rumori che risultano più fastidiosi, che infastidiscono di più in generale, c'è il russare. Quindi, se volete, avete ancora tempo, 800 24 00 24 di intervenire in trasmissione per raccontarci se russate e soprattutto che rumore fate. Ma di russamento vogliamo parlare insieme al dottor Lino Nobili, responsabile del Centro di Medicina del Sonno all'Ospedale Niguarda di Milano. Buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti. A un esperto di medicina del sonno il russamento non può dare fastidio. No, non dà fastidio, perché fa parte della nostra pratica clinica, certo. È una delle più frequenti, quindi dobbiamo, anzi. Allora, russare, tra l'altro, è uno, dottor Nobili, degli argomenti su cui più sono diffusi i luoghi comuni e i falsi miti. Vediamo rapidamente di sfatarne i principali per poi dare un'indicazione ai nostri amici. Russare dipende dalla posizione che si assume durante il sonno. È più frequente se si dorme supini, vero o falso? Vero o falso? È vero, sicuramente è vero, perché in quella posizione la lingua cade un po' all'indietro e quindi tende ulteriormente a ostruire le vie aeree, quindi facilita il russamento e addirittura purtroppo può favorire anche le apnee vere e proprie. Russare dipende dalla forma del setto nasale, vero o falso? Certo, può essere influenzata da il russamento è un fenomeno che avviene per una serie di fattori, tra cui anche la deviazione del setto o qualche cosa dentro il naso che non è perfetto. Russa chi dorme profondamente è, insomma, un segno di buon riposo, dottor Nobili. Non è vero, questo non è vero. Falso. È vero che si può russare in sonno profondo, ma purtroppo il russamento già di per sé può creare qualche volta un disturbo del sonno del soggetto che russa. Non è solo un problema per chi è a fianco. Qualche volta è assolutamente minimo, trascurabile, qualche volta anche un semplice apparente russamento può disturbare il sonno di chi ne soffre. Russare è tutta colpa dell'età, con gli anni i tessuti si rilassano e parte la vibrazione sonora. Diciamo che con l'età si può aggravare, perché è vero che i tessuti si rilassano, però ci sono dei giovani, qualche volta anche magri, che hanno una particolare conformazione della bocca, del collo e del naso, per cui hanno già di per sé un russamento anche da giovani. Ci scrive Antonio su WhatsApp: ho 40 anni, non sono in sovrappeso, ho incominciato a russare, come faccio a capire il motivo? Allora, ringrazio Antonio per questo messaggio, perché dottor Nobili ci dà l'opportunità di parlare di russamento, di individuare il russamento da un altro problema invece più serio, che è quello delle apnee notturne. Sì. Due situazioni differenti che vanno attenzionate. Beh, in questo caso bisogna fare una serie di valutazioni, tra cui quella otorinolaringoriatica, che è quella che più può dare la risposta del perché a quel punto c'è la principale ostruzione. Poi vale la pena anche di fare una polisonografia per capire se è un russamento semplice o è associato a delle apnee, naturalmente sotto la valutazione di un esperto del settore. Ecco. Quindi se chi russa improvvisamente smette e c'è silenzio, noi che dormiamo accanto al russatore tiriamo un sospiro di sollievo, ma attenzione, quel silenzio potrebbe individuare un problema. Esattamente, le apnee sono l'evoluzione del russamento. Consideriamo che apparire qualche apnea sporadica nella notte è una cosa che può succedere a chiunque. Quando questo fenomeno si ripete più volte, gli esperti dicono, se si ripete almeno 5 ore per notte, cominciamo ad avere il disturbo clinicamente rilevante. Dottor Nobili, l'aspettiamo qui per parlare di sonno, di insonnia, di apnee e di russamento. Va bene, grazie. Va bene, alla prossima, arrivederci, saluti a tutti. Grazie al dottor Nobili. Dottor Burdo, finalmente c'è il silenzio, abbiamo messo a tacere il nostro compagno, ma inizia a suonare il nostro orecchio, eccolo, è l'acufene. In un minuto può dare delle indicazioni a chi ci sta scrivendo, in 30 secondi, che fare quando... Certo, l'acufene non è una malattia, ma è un sintomo. E quindi dobbiamo trovare qual è la malattia, dobbiamo identificare la malattia che lo provoca. Nel 90% dei casi è un segno di sordità, orecchio scassato per definizione fischia, ma nello stesso tempo può essere un segno di due cose principali. Primo, importantissimo, può essere un campanello d'allarme per chi soffre di ipertensione, sale la pressione, è come aprire il rubinetto, certo, violentemente. Quindi, del lavandino. Ipertensione oppure? E la seconda, un'articolazione temporomandibolare che scrocchia e mette in contrazione tutti i muscoli masticatori. In 30 secondi il dottor Burdo vi ha dato delle indicazioni, torneremo, scriveteci, continuate a seguirci. Deborah, a domani, ritorna a Investire Informati e tante altre cose ancora. Buona giornata a tutti.